pesante, rumoroso. Strascicante di ferraglia addormentata come un raid di stuca in volo, persuasi allo sterminio su Guernica, lo stormo più compatto e dolcinato che urla e forse laggiù, impicchiata. Buca, eureka, centro. La cassiera muta e indaffarata come l'inizio di Mane dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, mentre sono i loi, loro, che fanno ogni minuto affari d'oro. Ma ecco, ecco qui sul petto, stampata senza posa in fotocopia, diffusa tra la gente al portatore, è la moneta che non vale niente. Zecchini sciorinati a profusione, a pioggia sventagliati, a cornucopia. E la cascata blu riscintillante, di interessi multipli e composti, la fruttifera ostensione. È una forza trionfante, proterva, che svetta nel dolore del mio canto e picchia col suo volo sui soffitti e rode il mio cervello piano piano e sul mio cranio pianta, despota, il suo vessillo nero. Basta, siamo ostaggi persi, un tempo vivi, non suscettibili di riscatto alcuno. La nostra esistenza scissa, squilibrata, deturpata, violentata, profanata, frammentata in mille rivoli e brandelli. E quelli, sempre quelli, a comandare. Non si decide e non si cambia mai. Identiche le facce degli imbecilli, i bei fasulli, pronti a rompere i sigilli, a raggirare, a denudare il morto, indifferenti al torto, cercando solo il quanto, non il quale, rogliando nell'impasto, ottusi ed incoscienti, intenti ad arraffare, ad ingrassare, incamerando beni ed interessi, infinocchiando essi, i buoni buoni. Li forma e istruisce il marruffano. È il pupo siciliano che dal soffitto un essere manovra. È l'uomo materiale, il greve bottegaio, il grassatore. Colui che tutto fa dei soldi la misura e i soldi in fondo tutto con misura. Aspro, torvo, ignobile, guardingo, violento e di racconto il picchiatore. Versato ai modi estremi il fraudolento, l'idealista dei miei stivali che al mondo, purtroppo, ha molti uguali. Perfetto e inappuntabile, apparente, che dietro quella maschera c'è il niente. Tutti i valori, peraltro, in lui, hanno valore solo fino a un certo punto, sempre pronto a rovesciarsi e a rovesciare il buon Voltagabbana, a trasformare la danza se in mezzo si frapponga una questione, sottile o grossolana non gli cale, che di quattrini importi la portanza. Impettito mani ai fianchi e petto lungo. Lui, rettore supremo, così dotto, saggio e ben in vista, amico ammagliatore della gente, sprigiona magnetismo da ogni poro. Con la sua voce calda da cantante, incantatore orfico magliando, ti brucia con lo sguardo. È una forza trionfante e proterva che ci schianca il cuore, l'energia. Siamo sfiniti e disanimati nella strenua rincorsa al barlume. Così ti dai da fare. La situazione è difficile e precaria e tuttavia non vuoi lasciare nulla di intentato. E non ti scrivanie col tuo CV, leggi le inserzioni, i tuoi estremi lasci all'agenzia. Che ti sia chiaro, infine, chi sei tu. Colloqui, concorsi e selezioni, spendi fortune in posta prioritaria. Vivi nell'attesa e non respiri, che ti manca l'anima. Ma un giorno ti raggiunge la notizia. E finalmente, che ormai non ci speravi quasi più, tu sei assunto, assunto! Rallegramenti, congratulazioni e pacche sulla spalla, i telegrammi sostengono il tuo rito, il tuo entusiasmo. Ma si festeggia, dimmi, con l'orgasmo, la morte psicologica di un uomo. Sono 800 dindi al mese, quando 1000 non ti bastano a campare, e in cambio, ecco, gli dai il fritto. Tutto il tuo tempo, da mattina a sera. Oh, il tempo. Tutto quel che hai. Ma soprattutto, tutto quel che sei. Vero, Heidegger? È la tua vita, presa in un sequestro per 800 sporchi dindi ad ogni mese, che al massimo tu ci sopravvivi. Riscatto quotidiano in busta paga con un contratto a termine capestro, che te lo danno come un gran favore il precariato. Flessibile. Mobile, disposto, come un ingranaggio ben oliato, un pezzo incastro funzionale a tutto il meccanismo. Così ha deciso devi essere qualcuno che precario non è affatto, attaccato con la colla alla poltrona non la molla mica, che guadagna 80.000 volte più di te. L'ho visto l'altro giorno con la fica che gli stava accanto in Maserati, guidare col suo stile prepotente, lo sguardo misterioso e trincerato dietro un bel paio di lenti blè, modelli ultima moda. Sarà poi un caso, ma da quel giorno la tua vita si trasforma, e non in meglio. Ma oggi ne sei fiero, è il 1° maggio, e hai appena finito di giocare. Da domani si comincia, e fai davvero. Sei uomo, sei grande, sei forte, e con coraggio affronti la tua sorte. Sei stato punzonato per la corsa, la grande maratona delle fate, di dietro al pifferaio direttore che tiene tutti quanti con le briglie incontro alle migliori meraviglie, per le più dolci ore. Che è questo, o non è, il bel paese splendido del sole? Basta con i sogni, e le menate, sbrobbi da idealisti e sciocche fole. Serietà, responsabilità. Tu non esisti più, quello di prima. Devi scordarti di te stesso, quello che sei stato e che tu sei. Sei un altro. Sei sposo del padrone. È il porco del tuo corpo, è il tuo signore, cui devi dedicarti culo e cuore, finalizzarti tutto al suo progetto, identificarti col suo sogno, essere ingranaggio funzionale che il tuo bene è diventato il suo e non può farti male. Gli devi la speranza e la tua luce. Solo lui ti porta alla salvezza. Sei chiamato, insomma, a scegliere una cosa, o il padrone o Mammona, o meglio, il padrone di Mammona, o meglio ancora, immolarti alla Mammona del padrone, che è una grossa puttanazza cremolosa e ti vuole ben disposto a tutte le ore per le sue voglie, per le sue viltà. E la tua anima, e la tua luce vera, e le esigenze dello spirito interiore, e le energie che ti fanno uomo. non hai tempo più per niente. Ti succhiano, ti spremono a limone, quando torni a casa sei distrutto, confuso, obnubilato ti addormenti e spegni sul cuscino i tuoi tormenti. Non leggi più, non pensi più. Solo un popolino di TV, quel tanto di serale disimpegno, le cosce sgambettanti al varietà e la pubblicità, che ti consiglia mentre tua figlia chiede le istruzioni per vivere la vita e non rispondi, perché da un po' di tempo tu hai già smesso di farti le domande, di essere vivo, tragicamente inconscio, piano piano. Sei come in trance. Dov'è la verità? Dov'è la giusta via? Tu non capisci più. Così nel giro di 6 mesi, un anno, male che gli vada, il gioco è fatto. Sei reso inoffensivo, automa, inerte, addormentato, un pesce incappiolato nella rete. Ci sono riusciti anche con te. E i tuoi occhi infine sono spenti, come pozzi vuoti e inespressivi. Ma un giorno, all'improvviso, ti risvegli. Capisci che ogni giorno lavori praticamente solo per mantenere la macchina. Che ti serve per andare ogni giorno a lavorare. La macchina, l'ipostasi emblema del sistema, l'invenzione più geniale e redditizia, la scatola infernale che ammorba col fetore viscerale. È il petroliere che accende e mantiene il semaforo rosso e gode dell'ingorgo procurato, perché ogni attimo che tu rimani là, inscatolato come una sardina, con l'occhio strabuzzato ed impotente, sognando il tuo bel pieno di benzina che lentamente in fumo se ne va, per lui è un affare grosso. E la tua macchina, pur quanto utilitaria, è una gallina d'oro. Ogni mattina 2 ore di traffico e altre 2 la sera per tornare. L'aria respirabile che appesta di piombo avvelenato e di furore. Ma si può campare in questo modo? Cos'è questa spirale? Chi è che l'ha inventata? E quale soluzione? Sorpreso più che deluso. A che ti sei messo in testa? E lascia stare. dai, forza, che vuoi fare? Vuoi farmi concorrenza? Vuoi metterti in affare? Mi dica che cos'è questo rumore, questa potenza immane che involga il meccanismo e ci fa male. E qui, il bit, il chip, è il printo costruttore, l'impulso della macchina mondiale, la vita, la gioia, la natura. E non hai orgoglio a farne parte. Direi che è storia, altro che natura. Io preferisco giocare a carte, io tento la mia sorte. Tu tenti sciocco la tua morte. È una signora d'ore. Di spirito le parlo, mio signore. Di spirito. Soccorso. Infermeria. Un sorso di liquore. E ti guarda strano, come dalla luna. Non ti capisce più, ma che gli dici? Tu sei una frana in un massiccio di saldezze. Tu sei solo un mezzo, non un fine. La tua spinta è necessaria alla catena, è l'olocausto delle tue energie. È sacro sulla pila dell'idea di cui a potere i frutti sarà lui. Così dopo una vita spesa in nome di quel fuoco che ti brucia ma non t'appartiene, al sacrificio immane dei tuoi giorni di rinunce, di vie che non hai scelto mai percorso, ti guarderai allo specchio e dirai, fui. Arbeck McFry. E questo è il tuo discorso. Con la tua moneta, lo sentano che costa e che non paga. Non credere che di essere perduto hai sempre bisogno di un certo margine di scelta, la forza di un arbitrio personale. Coltiva una visione alternativa della vita, del mondo, del futuro. Spingi la maniglia che conduce ad un'altra stanza. Abbi il coraggio di vivere il tuo sogno, di aprire i confini del tuo sguardo alla meraviglia, di sciogliere piano piano il tuo respiro. Dentro il vuoto oscuro c'è un passaggio di luce, un varco, un filo di speranza. La disperazione, il non vedere l'uscita, sono alla base della tua sconfitta. Dalle putride infami della scimmia edulcorata d'Occidente. un uomo. È un uomo sotto ogni cielo, perché ogni cielo è il cielo ed ogni uomo è l'uomo. Politicamente corretti, inappuntabili almeno all'appello. eleganza, bella presenza, predisposizione ai pubblici rapporti e alle persone, brillanti, splendidi, ironisti, schiavi delle strutture che noi stessi siamo a costruire, della prigione con le chiavi in mano a cercarle, a desiderarle. E in ogni caso, come eludere la guardia di noi stessi, se noi stessi siamo i carcerieri? Come osare uscire dalla fila che ci fa stare in piedi e tiene uniti? Alzati e cammina, non caso, se ancora ce la fai. Ma ecco, dunque, che cos'è? Adesso vedo. Nient'altro che una lunga fila senza fine, verso una grassa rugosa megera, la cassiera di tutte le cassiere, col viso ebe degli occhi spiritati, la quale, dopo aver scrupolosamente digitato la tastiera, che batte senza posa alla sua cassa, il conto apocalittico e totale, e qui di nuovo sgroscio di zecchini sopra un grande mare, ci porge infine a turno, come un lecca-lecca dei bambini, uno dopo l'altro, inesorabilmente, il sacchetto di polvere che si ha.